and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Oh, Drago, martedì talento, eh? Martedì, sì. Talento, giovedì gnocchi, venerdì pesce, martedì talento. Talento perché è il giorno dei talent show un po', certo, in tutto il mondo, no? Certo, quindi il talent show più atteso di tutti, però qual è? È il nostro. Quello il di nostro. Chiedo asilo, certo. Certo. E quindi diamo il via all'ultimo, purtroppo, appuntamento con... Eh sì, perché oggi finiscono le canzoni in gara, no? Purtroppo. Sì, 7 canzoni per Seba, 7 canzoni per Dini. Sì. Sotto l'occhio vigile e mai spento del nostro giudice Morgan. La situazione è sempre a favore di Dini e non accenna a cambiare. Cosa stai dicendo? Eh? Vabbè, volevo dire Seba, ma non importa, l'importante sta è partecipare. Seba. Sì, dai, sì, Drago, disse su. Quello che arrivò secondo tra due. Sta vincendo Seba, ma io e Dini oggi ci giochiamo il jolly. Non siamo mica quindi... a giochi senza frontiera, vabbè, non si può giocare se, il jolly a se. Kid Factor. Ma oggi noi, io e Dini, abbiamo preparato un pezzo davvero forte, davvero importante, di una band importante, con un testo importante, vabbè, capito? E anche un posto importante nell'immaginario collettivo di tutti, importante. Cioè un collettivo di tutti che collettivo, è tautologico. Sì, collettivo di tutti. Però aspetta, prima di parlare dei pezzi, bisogna invitare i nostri ascoltatori a votare per Dini o per Seba alla mail chiedoasilo@radio24.it. Sì. Però non dimenticate di farvi un giro sulla pagina Facebook dell'Istituto Barlume, che siamo noi. Ah, ecco. Però adesso bando alle ciance, Facebook, social network, lo sai, votate, che mi fa venire votate. L'orticaria e via dritti spediti verso la gara vera e propria, che anche lì è un po' tautologico. Vera e propria. Sono due, sono Dini e Seba, e da 7 settimane si sfidano all'ultimo voto. Con quali canzoni si presentano all'ultima gara? Settimo appuntamento con Kid Factor, stavolta cominciamo con il mio artista, Seba, cantante punk dal Veneto nord-est, quindi allevato, aizzato, come ha detto Morgan all'inizio di questa serie, aizzato dai genitori contro la società, canta È Natale a pedali. Ma non contro la società, hai detto proprio aizzato dai genitori, punto. Forte del successo di voti che sta ottenendo, Seba rischia e presenta una canzone natalizia a 2 mesi dal Natale. Con È Natale a pedali, ecco a voi Seba! È Natale. È Natale. Bella questa. Piazza. Passa Babbo Natale. Io la macchina. A pedali. Proprio. Sì, bravo. Alla Porsche a pedali. Porsche a pedali è una cosa da Iannacci. E Iannacci. Sì, grande Morgan, sì, sì. Grande. Va bene, va bene. Adesso con chi ama Iannacci vota Seba. Va bene, sì, adesso però invece Dini va nelle tristezze irlandesi degli U2 infatti, della prima ora. Giusto per con una bella canzone sanguigna, Sunday Bloody Sunday. Arrivato sfiancato all'ultima puntata, l'esangue settenne Dini tenta il tutto per tutto e coverizza la band più famosa del pianeta. Con Sunday Bloody Sunday accogliete con un grande applauso Dini! Ecco, però un po' ripetitivo. Vabbè, c'è, poi c'è l'intro. C'è l'intro, Dini c'è l'intro. C'è noto una certa ossessione per il marimba. Beh, poi è l'ossessione per l'intro. L'intro. Vabbè, ma lascia. Ma l'intro va benissimo, la intro. Vedi, vabbè, lui è un po' così, cioè. Sono dei palissandri, dice. Guarda la foresta. Sono dei palissandri. Oppure dei cruscotti della Porsche, della quello di prima, di palissandro. Quindi sono dei palissandri, dice, anche se è a pedali. Qui sono le Canintians, che sono le coriste. Sono belle Alessandre, anche le coriste. Sunday. Sì, è buono, gioco di risposte. Certo, beh, qui tutto a buono piacere. È una imitazione barocca, è proprio il contrappunto. Vedi, vedi che riconosce il la canone, qualità. Ogni canone. Volta il giudice Morgan capisce canone, che canone. Aggiunge qualcosa. Aggiunge che Dini è sicuramente superiore. Dini musicalmente, cioè, è sicuramente più preparato, più completo, più ricco, più stratificato. Però attenzione, questa è la tua ultima partecipazione come giudice a Kid Factor. Devi dire qualcosa di definitivo. Non dico qualcosa di sinistro o di destra, qualcosa di definitivo. Allora, ti dico una cosa, innanzitutto che Dini è di destra, invece Seba è anarchico, quindi la sinistra non è rappresentata in qualche modo. Mi sembra una cosa che succede. Non capisco questa cosa, però i Velvet Underground, prima dicevate, prima la maledizione, adesso Dini improvvisamente diventa di destra. Sono di sinistra i Velvet Underground, direi di no. Lì si entra in un tunnel. Questione spinosa, e non un filosofo, ma Massimo Spinosa, che è proprio un arrangiatore molto bravo. Allora, l'arrangiamento di Dini direi che è totalmente superiore. Io ho prima evidenziato la differenza che c'è di base, diciamo, tra i due. Le due impostazioni. L'una, quella del cantante Dini, è fatta di morbide scelte sonore di grande competenza armonica e soprattutto di scelte timbriche, appunto, molto, molto serie, ecco. Quindi c'è anche una maturità superiore, no, in questo, nella scelta dei timbri, nell'organizzazione dell'arrangiamento. Infatti è stato definito più arrangiatore che altro. E invece l'altro è un, se vogliamo, un situazionista, diremmo. Sì, Seba, Seba è situazionista, cioè fa delle provocazioni con le sue canzoni, provoca e cerca di scardinare quelli che sono proprio le piccole certezze della società e anche del nostro mondo musicale, buttandoci così la realtà cruda in faccia, senza un linguaggio retorico, bensì utilizzando direttamente il linguaggio che non ha mediazioni, quindi il linguaggio della verità. E infatti l'abbiamo definito espressionista. A questo punto io vorrei chiederti questa tua esperienza, diciamo, di giudice di talent show, finalmente davanti al talento puro, quello dei bambini, quello non contaminato. Ecco, com'è stata rispetto alle tue precedenti esperienze come giudice di talent show? Molto più divertente in questo caso. Beh, questo oggi ci fa piacere. E soprattutto mi arricchisce, perché trovo che la purezza di un bambino sia sinceramente molto più vera, più utile, anche se tu ti fa ricordare anche quali sono le vere cose importanti della tua stessa vita, perché un bambino ti ricorda quanto tu dei tuoi bisogni, cioè, che sono di ritornare alla semplicità e all'autenticità che avevi ma che hai perso. Allora il bambino te la ricorda, e a questo punto tu riesci in qualche modo a agganciarti, no? A un te stesso che ormai è morto, che è quello puro, che è quello semplice, che è quello del cuore, per cui l'adulto, quasi tutti hanno perso la strada, cioè vivono per inerzia, vivono per i soldi più che altro, cosa che i bambini non fanno. Ecco il bambino che non vuole guadagnare con quello che fa, ecco perché ci piace di più, almeno mi piace di più. Però anche io compio l'errore dell'adulto di essere appunto adulto e non posso che farlo, quindi una deriva inevitabile. Deriva anche ai nostri due artisti, dovete votare. Farlo è facilissimo, basta scrivere Seba o Dini su una mail e mandarla a chiedoasilo@radio24.it. E chiedo asilo, io chiedo asilo, chiedo asilo, e chiedo asilo qui, proprio qui, e chiedo asilo qui, sì, chiedo asilo qui, qui, asilo a Radio 24. Perché io chiedo asilo, non te lo dico, so soltanto che io chiedo asilo. Ma se poi tu mi chiedi perché chiedo asilo, ti rispondo in separata sede. Un programma di Cappa e Drago. Torniamo domani e mandate i vostri saluti a Morgana a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo, chiedo asilo. chiedo asilo, chiedo asilo.